soldi, sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ah, riprendiamo un'altra bella settimana insieme. Ma certo, non sei contenta, Deborah? Buongiorno, no, bentornata. So che sei stata anche in giro per l'Italia. Esattamente, però ho parlato anche tanto di te. Sappi che ci vogliono bene ovunque. Nonostante qua ci sia stato questo referendum con tutta una serie di obiettivi, in Sicilia ci amano. Ma vedi, guarda, non temo nel nostro distacco. Saranno tutti i miei creditori, secondo me. Per questo mi vogliono bene e ci tengono che io sia sempre in salute e onori le mie scadenze. Esattamente. Senti un po', allora, chiaramente oggi è lunedì. Partiremo con un commento sulle previsioni sui mercati finanziari, perché è una settimana ricca di appuntamenti. Il focus più importante è sull'appuntamento di giovedì della Banca Centrale Europea. Per quello che riguarda invece l'approfondimento di oggi, andiamo al diritto di famiglia. Sì, al diritto di ex famiglia, mi verrebbe da correggere. Perché parliamo, come vi avevamo annunciato venerdì, parliamo di questi, dei padri separati. Aveva fatto notizia la vicenda di Marco Della Noce, il comico che appunto aveva dichiarato: sono stato ridotto sul lastrico, e lo avete sentito anche qui a Radio 24 ai funamboli durante la giornata di venerdì. Ma quello, noi vorremmo allargare un po' il discorso sulle tutele, diritti, doveri, esatto, delle separazioni. La figura dell'assegno di mantenimento, come, quando e perché, insomma, qual è l'entità che correttamente si deve stabilire quando ci si separa, e se si è nelle condizioni di precarietà finanziaria, come nel caso di Marco Della Noce, che racconta chiaramente la sua vicenda, ci sono le condizioni appunto per modificare l'importo, come si fa. Quindi il nostro focus è più che sulla vicenda personale dell'amico Marco Della Noce, sarà naturalmente invece proprio su tutta l'istituzione, su tutto l'istituto giuridico dell'assegno di mantenimento, se così si può chiamare. Poi e abbiamo fiori di esperti, cara Deborah. Qualcuno è già qua in studio con noi, gli amici di Facebook peraltro possono già vedere, ma non sveliamo il segreto. No, non diciamo ancora nulla, è un avvenente collega che ci ha raggiunto. Se volete, la nostra pagina Facebook, Due di Denari trattino Radio 24, mi raccomando. Esatto. Poi, no, e i numeri di telefono non li vogliamo dare. Ma non sia mai, ti prego, racconta, ricordaceli. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, parliamo, come vi abbiamo detto, delle separazioni, divorzi, mantenimento, diritti, doveri delle ex famiglie. E poi c'è l'abituale 349 238 6666, qui potete mandare sms o anche whatsapp, ma se volete pure scriverci una mail, due di denari @radio24.it. Meteo Borsa. Allora, stamattina il tempo in Europa è così un po' incerto, era sereno invece stamattina a Tokyo, che ha chiuso con un brillante rialzo di oltre un punto, molto sereno a Wall Street, che ormai macina inarrestabile un record dietro l'altro. I temi da commentare stamattina sono moltissimi. L'Europa chiaramente continua a guardare all'evoluzione del braccio di ferro tra la Catalogna e il governo centrale di Madrid, e poi chiaramente abbiamo anche la grande attenzione da mantenere sui temi prettamente finanziari. Questa è la settimana davvero importante per Mario Draghi, la riunione della Banca Centrale Europea, nel corso della quale probabilmente arriverà questo annuncio di rimodulazione del quantitative easing o interruzione. Vedremo quale sarà appunto il gergo utilizzato da Mario Draghi, perché gli operatori anche a quello guardano. Allora, con chi commentiamo tutto ciò e con chi facciamo le nostre previsioni? Oggi tocca a Marco Piersimoni, Senior Portfolio Manager di Pictet Asset Management. Buongiorno Piersimoni, ben ritrovate, grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno. Da che cosa partiamo? Partiamo dalle banche centrali, perché peraltro il presidente americano Trump ha cominciato anche il casting per scegliere il nuovo presidente della Federal Reserve, per cui le banche centrali ancora una volta saranno il tema dominante della settimana finanziaria. Piersimoni. Sì, abbiamo effettivamente due appuntamenti importanti. Il primo è ufficiale, con una data ed un'ora certa, che è quello di giovedì alle 14.30, momento in cui Draghi ci dirà che intenzioni ha su quantitative easing, ossia come proseguirà, di quanto proseguirà e per quanto tempo proseguirà. Meno prevedibile per definizione probabilmente anche l'annuncio del nuovo o vecchio che sia governatore della Fed. Questo tipicamente in America si annuncia nel mese di ottobre, per entrare poi nel carico del nuovo lavoro nel mese di maggio, però sembra essere veramente una questione di giorni. E questo per cominciare. Allora, faccio una piccola fotografia dell'andamento dei mercati adesso. Parigi più 0,22%, Francoforte più 0,28%, Madrid era negativa, Milano meno 0,01%. Secondo te, Mauri, il referendum lombardo-veneto ha interessato un po' il mercato? Vedo Milano un po' più precaria delle altre piazze europee. Tu che dici? Poi chiediamo. Mi sembra che l'effetto del referendum, a parte che ancora non ho capito se sappiamo esattamente quant'è la percentuale dei votanti, e quindi forse questo voto elettronico non ci ha dato tante soddisfazioni. No. No, mi sembra che l'esito del referendum in realtà sia molto di là da venire, perché ora bisogna, come è stato detto, aprire una trattativa con il governo, fare una richiesta precisa di quali materie vogliono essere interessate, si vuole interessare a una maggiore autonomia e così via. Poi quindi andiamo sicuramente nella prossima legislatura. Avrei la curiosità di capire con Pier Simoni, parliamo di banche centrali, ci sarebbe anche questo problemuccio di Banca d'Italia, però non so se i mercati a questo punto se ne faranno un baffo, oppure invece il nostro mercato potrebbe avere una qualche sussulto da questa vicenda. Io lo leggerei in questi termini: il governatore della Banca d'Italia in sé per sé non è un, come dire, la nomina del governatore della Banca d'Italia non è un fattore che determina i movimenti di mercato. Il problema è che il modo in cui si è svolta la vicenda dimostra una certa predisposizione al proseguire del rumore politico, per cui si testimonia il fatto che in Italia c'è un problema politico, ci sono dei nodi che verranno al pettine. Non credo che il referendum, anzi certamente questo referendum non è stato letto dal mercato in modo preoccupato. Quello che il mercato guarderà certamente con più attenzione è l'esito delle elezioni in Sicilia che verranno da qui alle prossime giornate. Quello invece è un momento importante. Allora, per quello che riguarda la Catalogna, diciamo che novità fondamentali in questo momento, stamattina, non ce ne sono. Ricordiamo che Rajoy ha deciso di esercitare l'articolo 155 annunciando la rimozione dal loro incarico di tutti i membri del governo catalano. Madrid assumerà il controllo delle funzioni, inclusa peraltro anche quella del controllo della polizia locale, e chiederà nuove elezioni entro 6 mesi. Sulla Catalogna qualcosa da aggiungere, Pier Simoni? La Catalogna ha dimostrato come effettivamente la capacità per i mercati di digerire notizie che effettivamente a livello sociale ma anche economico sono rilevanti, invece per i mercati contano abbastanza poco. L'attivazione dell'articolo 155 non ha avuto nessun impatto sui mercati, tant'è che addirittura la misura, la temperatura della preoccupazione dei mercati, ossia il mitico spread, per cui il differenziale dei tassi di interesse tra i titoli spagnoli e quelli tedeschi, di fatto nella giornata di oggi è pressoché immutato, per cui il rumore politico spagnolo è rilevante nel medio termine. L'Europa ha tenuto un atteggiamento molto fermo, dichiarando di fatto pressoché inutili le istanze del governo locale catalano, per cui guardando avanti penso che l'attenzione dei mercati europei si focalizzerà di nuovo sull'Italia, elezioni in Sicilia e prossime elezioni politiche l'anno prossimo. Stamattina un'occhiata veloce ai migliori titoli: Italgas più 1,33%, oggi c'è un consiglio di amministrazione per la trimestrale anche a Milano, entra nel vivo la stagione della rassegnazione appunto dei conti. STM più 1,13%, Generali più 0,7%, BPR Banca più 0,7%, questi i migliori titoli di Milano. Però forse un piccolo focus anche sul Giappone, Mauro, stamattina vale sì, la pena farlo. Sì, perché infatti a proposito di elezioni mi veniva esatto, da pensare, sono giornate pazzesche. Ci sono degli altri eventi politici, ad esempio il voto in Giappone. Pier Simoni, mi sembra di capire che c'è una certa lentezza dei mercati a digerire i mutamenti politici, o forse un attendismo per capire bene come evolvono le vicende, quella catalana, quella siciliana quando sarà appunto il voto in Sicilia, e adesso quella giapponese. È così? In realtà era abbastanza attesa dai mercati la vittoria di Abe, che è stata forse superiore alle previsioni in termini del numero di parlamentari che sosterrà la maggioranza del premier. Io quello che direi è che i mercati, più che essere lenti nel reagire, sono proprio addormentati. Se uno guarda gli indici azionari europei, nel corso delle ultime sedute, delle ultime 10, 15, 20 giorni, si sono mosse in un intervallo estremamente limitato. Parliamo oramai da diversi mesi di volatilità dei mercati molto bassa, ma siamo arrivati soprattutto per i mercati europei ad un livello quasi paradossale, per cui sappiamo che questo regime di calma piatta non durerà per sempre e le prossime reazioni ci riporteranno un regime di movimenti di mercati, di volatilità dei mercati più fisiologica, E l'unico problema sarà cosa? L'unico problema sarà che, essendoci abituati a questo movimento di calma piatta, anche movimenti di 1-2 punti percentuali su base giornaliera, che onestamente non sono niente di che, ci sembreranno sconvolgenti, ma così non è, per cui attendiamoci che questo regime di calma piazza e di, promesso che, ignoranza di tutto ciò che accade attorno ai mercati sia destinato a finire. Un ultimo commento, Pier Simoni, che settore teniamo sotto osservazione questa settimana? Io direi le banche in America. Le banche in America hanno 3 motorini pronti ad accendersi: la nomina del nuovo presidente della Fed, la discussione sul cambiamento delle regole, per cui la deregolamentazione del settore finanziario, e lo stimolo fiscale, per cui occhi puntati su quel settore. Grazie a Marco Pier Simoni, buona giornata. Già scaldato i nostri ascoltatori, Mauro, ci sono già alcuni papà che ci scrivono su Facebook e su WhatsApp, poi cominciamo a dare lettura appunto delle vostre testimonianze che partono da questo caso di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, e peraltro sono arrivate anche delle precisazioni della ex moglie di Marco Dalla Noce, però ecco, come precisiamo sempre, subito che noi non ci addentreremo nel caso specifico. Come sempre, poi quando la legge entra in casa per dirimere i rapporti coniugali, i rapporti individuali, è difficile far rientrare tutto quello che comporta una vita a due o una ex vita a due. Mm-hmm. A noi interessa però mettere a fuoco diritti e doveri nelle separazioni, perché è un dato di fatto che Marco Dalla Noce non è il primo padre separato che si ritrova in difficoltà economica. Negli anni della crisi è stato anche particolarmente doloroso, perché in qualche caso c'è stato chi ha perduto il lavoro e quindi non ha più potuto garantire il sostegno che era stato pattuito, ma ci sono state anche alcune decisioni importanti dei giudici, ad esempio la famosa sentenza Grilli che tu, Deborah, sempre... Io cito sempre perché quella cambia molte cose per le donne... Che hanno detto, beh, ma non è che bisogna proprio garantire il tenore di vita, qui riassumo male, mi perdonino i giuristi, garantire il tenore di vita precedente. Infatti, soprattutto bisogna... se la donna è in grado di garantirsi una piena indipendenza economica, e quindi i giudici che cosa hanno detto? Se tu sei proprio incapace, impossibilitata a lavorare, lo devi dimostrare. E quindi questo è anche un po' uno dei cardini, diciamo, di questa sentenza. Avremo modo però di arrivarci nel corso della trasmissione. Oggi parliamo di padri separati, difficoltà economiche, come quando si può rivedere l'assegno di mantenimento se appunto uno dei due ex coniugi non è più in grado di garantire quello che ha pagato fino a un determinato momento. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta se lo vorrete. Buongiorno, grazie di essere arrivata qui negli studi di Radio 24, a Franca De Ponti del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. E grazie anche all'avvocato Gianetto Regassani, presidente e fondatore dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato Gassani, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Appena consegnato peraltro alle non alle stampe, anzi è già bello che pubblicato e in piena promozione il suo ultimo libro, C'eravamo tanto armati, che pure la dice lunga, anche se in realtà, avvocato, non è un libro sul tema di cui parliamo questa mattina, su quale si è cimentato con altri libri in passato, come per esempio I perplessi sposi ed altri. E vi dichiaro divorziati sempre con e vi dichiaro esattamente, anche quello, storie drammatiche e testimonianze molto intense. Da cosa vuoi partire, Mauro? Ma io vorrei partire intanto da un riepilogo delle questioni generali, lo chiederei a Franca De Ponti, cioè qual è esattamente quali sono i doveri a cui si va incontro nel caso in cui una coppia non sia più tale, anche perché poi bisogna considerare l'eventualità che ci siano o non ci siano dei figli, perché le situazioni sono completamente diverse a seconda della situazione dalla quale si parte. Quando si stava insieme, ma si decide di non starci più. Franca, aiutaci a chiarire il quadro generale innanzitutto. Beh, diciamo che intanto il nostro ordinamento prevede la fase di separazione e la fase di divorzio. Adesso i termini fra la separazione e il divorzio si sono molto accorciati, diciamo in linea generale si tratta di un anno, e quindi insomma le decisioni che vengono prese per la separazione, in teoria, poi bisognerà vedere come si declina nella pratica perché siamo ancora in una fase iniziale, durano non per tanto tempo. però al momento della separazione, tenuto conto che da separati il matrimonio è ancora in piedi, bisogna stabilire dove stanno i figli, cioè il coniuge collocatario, perché vale l'affidamento condiviso, però d'altronde i ragazzini da qualche parte devono stare, non sono delle palline da ping pong, quindi in quale casa stanno e quindi di fatto con chi stanno. Un tempo l'affidamento era quasi automatico alle madri, adesso si parla di affidamento condiviso, la madre è il genitore collocatario nella maggior parte dei casi, ma non sempre. È aumentato il numero di padri collocatari. Dopodiché si stabilisce qual è l'assegno di mantenimento per i figli, perché i figli vanno comunque mantenuti, questo sia in fase di separazione sia in fase di divorzio. E i criteri in realtà non sono proprio quelli che uno si immagina, perché vale sì le risorse economiche, diciamo, della famiglia di prima devono essere in qualche modo spartite, però vale anche quali sono le esigenze attuali del figlio, quindi per dire un figlio piccolo, passatemi il termine brutale, costa meno di un figlio che va all'università e quindi le esigenze cambiano. Vale il tenore di vita della famiglia precedente, che invece non vale più in caso di divorzio per l'assegno alla moglie. Valgono anche cose tipo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, perché è chiaro che se si stabilisce un regime per cui i ragazzi si dividono, insomma, in qualche modo i criteri sono diversi. E infine valgono anche i compiti domestici, cioè chi se ne occupa di più ha un peso, anche questo. Chi se ne occupa di più dei figli, quindi. Sì, sì, sì. Questo avviene già nella fase iniziale, perciò non siamo ancora al divorzio dichiarato, effettivo. No, queste cose vanno stabilite quando ci sono figli al momento della separazione, perché d'altro canto ci si separa, il nucleo familiare si rompe, da una casa se ne fanno due, bisogna stabilire questi ragazzini dove vanno, con chi stanno e... Nonostante l'affidamento sia condiviso, diciamo che comunque alla fine viene stabilito comunque un assegno di mantenimento dei figli che viene versato mediamente al coniuge che ha i bambini, i ragazzini in casa. Ecco. Cosiddetto collocatario. Sì, è un termine brutto, però insomma dà l'idea. Sì, ecco. Colui che insomma si fa carico di essere il riferimento per, certo, i figli, che significa che l'altro o l'altra più raramente, potrà comunque vedere i figli, ci mancherebbe, però non è il genitore che se ne fa carico nelle incombenze quotidiane, per dire così. Quindi tu citavi l'università piuttosto che la scuola o non so, anche corsi sportivi, eccetera. C'è un punto che mi ha incuriosito. Tu dici che dobbiamo guardare anche qual è il tenore di vita della famiglia. Quindi se noi prendiamo il caso di bambini, di ragazzini che magari avevano, non so, un tenore di vita abbastanza consolidato, per dir così, ecco, anche in questo caso allora l'assegno che viene stabilito, la cifra che viene stabilita dovrà tenerne conto. Voglio dire, se erano abituati a fare il corso di danza, la palestra, il calcio, le lezioni di musica, eccetera, eccetera, tutto questo dovrebbe continuare. In teoria è così e dovrebbe essere così, perché il tenore di vita, per quanto possibile, tenuto conto che farne da una casa due, dividere tutto, aumenta le spese di quello che è l'ex nucleo familiare, però la legge prevede che insomma il tenore di vita per quanto possibile venga mantenuto, ed è per questo che al momento della separazione ai coniugi si chiede quella che Mauro fiscalmente chiamerebbe disclosure, cioè i coniugi non devono portare soltanto le dichiarazioni dei redditi, ma dovrebbero rendere trasparenti tutto quello che hanno, e qua si innescano ovviamente, certo, contenziosi vari. Infatti il tema dell'assegno di mantenimento, perché molto spesso anche attorno a questo concetto c'è molta confusione, no? Quando una famiglia appunto si scioglie e viene addebitato generalmente all'uomo, appunto all'ex coniuge maschio, questo assegno, come ci spiega giustamente Franca De Ponti, è una cifra che deve essere corrisposta per il mantenimento dei figli, quindi partiamo dal presupposto che parliamo di una famiglia dove ci sono dei figli. Molto spesso però appunto si confonde, avvocato Gassani, questo concetto anche con quella parte di cifra che deve essere corrisposta alla moglie, soprattutto se questa non lavora, e attorno anche a questo concetto che forse si scatena la maggior conflittualità, no? Sì, infatti si tratta di due titoli economici completamente diversi, che hanno una natura completamente diversa. Infatti l'assegno per i figli è inderogabile quando essi non sono in grado di badare a se stessi. Anche nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, quindi non soltanto la separazione o il divorzio, ma anche davanti alla giustizia canonica, Il problema si pone rispetto al coniuge. Sappiamo che in tanti paesi d'Europa ormai gli assegni divorzili, se non ci sono parti prematrimoniali, sono diventati ormai fuori moda. In Francia addirittura l'articolo 270 del codice civile sancisce che in caso di scioglimento del matrimonio vengono meno gli obblighi di mantenimento. Quindi con tre righe i francesi hanno completamente stravolto il diritto di famiglia del loro paese, ma così sta succedendo un po' in tutta Europa. Cioè, quando si scioglie il matrimonio, sia due perfetti sconosciuti, o meglio, due perfetti estranei, non sconosciuti, chiedo scusa, beh, a quel punto vengono meno tanti doveri. Ovviamente esiste un principio di solidarietà che nel nostro paese non può essere negoziabile, per cui non è che la Cassazione il 12 maggio scorso ha eliminato il diritto del coniuge più debole, che può essere a volte anche un uomo, a ricevere l'assegno, ha soltanto cambiato i parametri. Attenzione, è una sentenza scritta da una donna, non da un uomo, quindi questo è anche molto significativo. In effetti si calcola che, cioè, si valuta non più il parametro del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, soltanto il parametro dell'autosufficienza. Credo che quindi significa che se una donna lavora, percepisce uno stipendio o dei cespiti, oppure non riesce a dimostrare di essersi attivata a 30-40 anni di età, quindi magari con una laurea, a trovare un lavoro, non avrà l'assegno di divorzio. Sembra quasi una punizione, certo. A volte può essere anche condivisibile. Però ecco, questo non ha nulla a che fare con la responsabilità che l'ex coniuge ha nei confronti dei figli, se ci sono assolutamente. Ecco, esatto, assolutamente, quindi sono due cose proprio assolutamente separate. Sì, assolutamente. Ovviamente io non sono d'accordo del tutto con questa sentenza, perché io credo che bisogna fare un distinguo tra i matrimoni mordi e fuggi e quelli lungo corso. Ora, pensare di trattare il coniuge più debole, quasi sempre la donna, ma ripeto, ultimamente qualche volta anche l'uomo, semplicemente valutando se ha o no uno stipendio o una pensione, secondo me non è giusto, soprattutto se si dimostra in sede di giudizio che quell'altro coniuge più debole comunque ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell'altro, cosa che succede quasi sempre. Allora, quindi credo che dovremmo fare dei distinguo, assolutamente non facciamo giustizia. Non si possono me. Fare generalizzazioni, nonostante ci sia una pronuncia appunto così importante, però insomma lì in quel caso abbiamo spesso commentato, parlavamo di un vecchio matrimonio con un tenore di vita molto importante, come poi aveva fatto molto chiacchierare anche per esempio la vicenda dei coniugi Pirlo, no? Con l'assegno che aveva riconosciuto il calciatore appunto alla ex moglie, anche lì lei aveva detto di essersi sempre dedicata alla crescita professionale di suo marito, però c'è pur sempre una scelta personale che si fa. Potremmo discutere a lungo di allora questi... Intanto vediamo come stanno andando i mercati, chiediamo un po' di pazienza ad Amedeo da Bologna, perché perfetto. Vuole proprio anche Enrico ci ha scritto un bel messaggio, porre una domanda sul mantenimento dei figli, quindi potete scriverci naturalmente o chiamarci anche durante la pubblicità e l'aggiornamento dai mercati finanziari. Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, abbiamo anche noi ripreso spunto questa mattina da una vicenda che ha fatto molto parlare la settimana scorsa, finita la ribalta della cronaca, quella che ha avuto come protagonista il comico, l'ex comico di Zelig, Marco Dalla Noce, che ha raccontato ad alcuni quotidiani di essere letteralmente finito sul lastrico a causa della separazione. Poi nel weekend sono arrivate anche alcune precisazioni per bocca naturalmente del suo legale da parte della ex moglie, che dice in realtà si è separato da molti anni, non adempie ai suoi doveri, lui si è rifatto anche un'altra vita, ha avuto anche un'altra figlia, quindi in realtà la situazione è molto più complessa rispetto a quanto si sia scritto. Detto ciò, per noi tanto è bastato per fornirci del materiale di cui discutere a Due di Denari. Il tema di cui parliamo stamattina, l'assegno di mantenimento, come e quando deve essere riconosciuto, quasi sempre al termine di una separazione, dopo una separazione ovviamente, soprattutto se ci sono dei figli, ma quali sono anche i diritti della ex moglie e soprattutto se il coniuge che versa non è più in grado di farlo nella misura in cui lo ha sempre fatto, come e quando si può chiedere di rinegoziarlo, di riconsiderarlo, perché poi anche lì bisogna rivolgersi a degli avvocati, Mauro, altre spese da sostenere. Parto con la domanda di Enrico su WhatsApp, poi ne abbiamo tante altre. Abbiamo anche diversi ascoltatori, esatto, in linea proprio. Enrico ci racconta che sua moglie guadagna 2.300 euro al mese. Allora, chiaramente noi prendiamo atto delle vostre testimonianze, poi bisognerebbe conoscere tutte le situazioni, però noi chiaramente vi diamo fiducia rispetto a quello che scrivete. Guadagna 2.300 euro al mese, me ne chiede 800 per le due bambine, 600 per la mia metà di mutuo, che è sacrosanta. Io devo andare in affitto, un appartamento decente costa 8-900 euro, guadagno 2.200, cosa mi resta per vivere? Lei sostiene che devo usare anche le mensilità aggiuntive, l'eventuale premio di produzione, ma non mi resterebbe nulla, anche per i miei imprevisti. È possibile che il giudice le dia ragione e mi mandi sull'astrico? Chiediamolo all'avvocato Gassani. Avvocato Gassani. È possibile? Sì, è possibile. Di casi di questo tipo ce ne sono tanti, ne conosco tanti, anche di gente che guadagna 1.500 euro e poi a fine mese ne deve versare 1.000 per il mantenimento magari di due figli e pagare almeno la metà del mutuo del canone di locazione della casa coniugale. È inevitabile. Purtroppo la separazione a certi livelli, con stipendi bassi, medio-bassi o medi, chiamiamoli come vogliamo, 1.500 euro per me è un stipendio basso, significa il tracollo economico di una persona, quasi sempre l'uomo, su questo credo non ci sono dubbi. Abbiamo 1.000.000 di padri separati che vivono in una situazione di povertà o indigenza addirittura totale. Le mense dei poveri, la Caritas, Roma ha costruito le case per i padri separati, sì. Lo ha fatto Torino, l'ha fatto Genova, a Bolzano, cioè è un problema sociale enorme. È un fenomeno tristemente in crescita, sì. Per forza, perché gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Abbiamo comunque il dovere di provvedere a salvaguardare i diritti e gli interessi dei bambini, quindi non è che possiamo pensare che siano i bambini a andare sotto i ponti. Purtroppo è chiaro che l'anello debole è il padre, quasi sempre il padre, su questo non c'è dubbio. Per adesso immaginate quanta gente la mattina timbra il cartellino, va a lavorare e poi magari la sera non sa dove andare a dormire. Ne conosco tantissimi di casi di questo tipo. Avvocato, è una tragedia nazionale. Questo è proprio... Avvocato, aspetti, perché voglio allargare il discorso con Amedeo, che ci chiama da Bologna. Buongiorno Amedeo, ci dica. Buongiorno a lei. Ah, niente, io volevo chiedere per cortesia come funziona. Io ero separato dal 2003, io divorziato nel 2007, ma dal 2003, perché avevo due bambini con questa signora, diciamo che mia figlia adesso ha 25 anni, lavora come una parrucchiera, il figlio 17 anni, ma io sto ancora pagando, non dico una cifra esagerata, per tutti e due 450 euro al mese, perché io sono solo un magazzinieri e poi io sono già sposato e ne ho altri tre figli. Non so, devo ancora continuare a pagare anche se mia figlia lavora? Lei dice che lavora 4 ore come una parrucchiera, perché l'avvocatessa ha detto se lavori solo 4 ore lui dovrà pagare per forza. Sentiamo cosa dice l'avvocato Gassani. Ma bisogna vedere se questa attività consente a sua figlia di autosostentarsi. Il fatto che lavori 4 ore magari al nero e guadagni magari 200 euro al mese, perché ci sono casi di questo tipo, purtroppo non la esonera dal suo dovere di mantenere. Del resto il problema è questo, i figli vanno mantenuti, cioè i figli non possono non essere mantenuti. Capisco perfettamente il dramma dei padri separati, ma 200 euro a figlio al mese penso che siano proprio il minimo per poterli mantenere. Ovviamente se si dimostra invece che sua figlia non lavora 4 ore ma ne lavora 8 e ha uno stipendio di almeno 600-700 euro al mese, almeno 500, è chiaro che lei può chiedere al giudice la revoca di questo suo obbligo, ma nel caso in cui lei sappia in coscienza che sua figlia tutto sommato sta facendo un apprendistato quasi gratis, beh, di cosa parliamo? Allora capisco il dramma dei padri, ma attenzione a non creare i drammi dei figli. Dobbiamo forse rivedere il welfare. Magari dobbiamo aiutare i padri che non hanno una casa, che dormono in macchina, ma i figli hanno il diritto assoluto di avere il loro mantenimento. Sì, poi in questi anni ricordiamo anche che si è fatto largo il dibattito proprio sulla soglia di età che deve essere raggiunta per essere considerato capace di provvedere alle proprie esigenze. Parliamo appunto dei ragazzi. Anche c'è stata anche una sentenza qui a Milano che viene un po' citata sempre come benchmark, come riferimento, dei 34 anni. In realtà l'abbiamo commentato anche qui a Due di Denaro. Non è che sia una norma di legge, era un'indicazione che è giunta proprio dai giudici milanesi, che hanno detto: beh, però, insomma, forse a 34 anni un figlio oramai che pigliasse la sua strada. Ecco. Questa era stata l'indicazione, non di legge, ripeto. Infatti. Allora, qui si possono fare due cose, Mauro: o sentire Giuliano o Marco da Verona, oppure andare al tuo momento di gloria del lunedì. Forse è il caso di procedere, perché sono le 11:44 e io vorrei proprio sentire. In che veste ti sei presentato oggi? Guarda, ci sarà un riferimento ovviamente al sabato e domenica calcistici. Io sono ben contenta perché a noi è andata bene. Prego. Il lunedì può giungervi foriero di crucci, ben ripieno come un cesto. È come ripartir da zero a zero, che può suonar gradito oppur molesto. Noi qui, con tono plano e pur leggero, siamo pronti per spiegar quanto più presto se lo mercato è in rosso o invece in nero, e rispondiamo se chiedi come investo. Senti la meteo borsa, oggi è un must. E se il consiglio non ti fosse chiar, repente chiedi aiuto telematico. Per te sul sito ci sarà il podcast e per l'ascolto tuo sarà la VAR. Ma ora tutti fermi, che c'è il traffico! Due di denari. Affrontiamo, sì, so che la volevi questa canzone. Sì, l'ho chiesta, devo dire che l'ho chiesta. Va bene, torniamo alle, come dire, alle al tema vicende di stamattina terribili di padri separati che si ritrovano appunto a far fronte a cifre che magari non si possono più permettere. Abbiamo diversi ascoltatori. Deborah, quale preferisci sentire prima? Ma guarda, diciamo che più o meno sono dello stesso tenore. Devo dire che stanno effettivamente chiamando molti uomini, ma considerazioni interessanti stanno arrivando anche da donne che ascoltano queste storie. Marco da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché il tema è quello da cui siamo partiti in realtà, era proprio questo interrogativo: se non si hanno più le condizioni economiche e finanziarie per poter garantire l'assegno di mantenimento inizialmente pattuito, stabilito dal giudice appunto e quant'altro, come si fa a chiedere la rimodulazione di questo? Marco, ci racconti la sua storia. Molto semplicemente, io ho due figli, 18 e 12, sono separato da 2 anni, do il mantenimento ai ragazzi e come per legge era stabilito 2 giorni alla settimana e un weekend alterno, però adesso i ragazzi da 6 mesi fanno una settimana con me, una settimana con la mamma, per cui mi trovo, oltre a mantenere completamente i ragazzi, ad alzare anche il mantenimento, per cui pensavo, ma perché se fanno una settimana a testa che abbiamo le stesse spese devo comunque pagare il mantenimento tutti e due, visto che abbiamo gli stessi costi? Certo, Marco, grazie. Avvocato Gassani, questo è un presupposto per poter andare a chiedere la riduzione dell'assegno versato? Assolutamente sì, si può rivedere la quantificazione dell'assegno, perché i tempi di permanenza presso i genitori sono identici. Si può anche prevedere addirittura la contribuzione diretta, cioè ogni genitore provvede al mantenimento dei figli nei periodi in cui stanno con loro. Ovviamente però vige sempre il principio anche del rapporto di forza economica tra i coniugi. È chiaro che se lui è un miliardario e lei è una cassa integrata, è chiaro che non si può parlare di contribuzione diretta. Comunque ci sarà un assegno di mantenimento perequativo per i figli, perché è chiaro che anche quando i figli stanno dalla mamma hanno il diritto a vivere una vita agiata, o meglio una vita che sia compatibile con quella che sarebbe stata se il matrimonio fosse andato avanti. Per cui a parità di reddito è ovvio che a quel punto questo padre potrebbe chiedere la revoca, non solo la riduzione, ma la revoca del suo obbligo a contribuire al mantenimento dei figli, visto e considerato che c'è una sorta di affidamento alternato, che non è neanche più condiviso ma alternato in questo caso. Certo. E nel caso in cui invece ci sia ancora un grande gap tra il reddito di lui e il reddito di lei, è chiaro che a quel punto il giudice potrebbe ridurre l'assegno, ma comunque prevederlo, perché è giusto che i figli abbiano le stesse possibilità sia quando stanno col padre che stanno con la madre. Cioè, non sarebbe possibile pensare che quando stanno col padre fanno la bella vita e quando stanno con la mamma devono tirare la cinghia. Questo il giudice non lo potrebbe assolutamente consentire. Deborah, io vorrei richiamare però l'attenzione su un altro aspetto che ci viene da Bruna, che ci scrive su Facebook. Sì, esattamente. Dice, ma va bene, ok, rivediamo l'assegno, ma quando il padre invece non versa quello che gli è stato imposto e se ne frega della figlia, poi ci scrive Bruna, eppure ha sempre lavorato. Franco, ci sono delle tutele ovviamente nel caso in cui uno non corrisponda a quanto gli è dovuto, quanto è dovuto, insomma. Allora, l'avvocato lo sa senz'altro meglio di me, però io ricordo che non versare il mantenimento è anche un reato, quindi cioè, è perseguibile. non è che uno poi va in galera per 20 anni, non, perdonatemi, non, ma non mi ricordo, però è un reato e quindi uno deve denunciare e deve andare dal proprio avvocato e perseguire il padre in questo caso inadempiente. È anche vero che poi nella prassi non è così facile, forse l'avvocato Gassani certo. sicuramente può dire qualcosa di più. Esatto, possiamo anche legarci alla, ad una parte della storia di Marco Dalla Noce, quella che in realtà è stata più al centro della confusione di questi giorni, e che si riferiva al fatto che gli fosse stata pignorata, sequestrata la partita IVA. Sì, che in realtà poi non è, le cose non sono andate appunto così. Però è stato chiarito che non era esattamente questa la circostanza. Quello a cui faceva riferimento Della Noce era: quando c'è una partita IVA di mezzo, c'è sempre questa sorta, lui non usava queste parole, ma noi possiamo precisarle meglio, presunzione di evasione, cioè che uno sia più ricco di quello che fa apparire e quindi magari sia più attivi con i pignoramenti e con questo tipo di richieste. Tu hai chiamato in causa Franca, certo. L'avvocato Gassani, dice la nostra collega Franca De Ponti, dice non è così facile in realtà costringere un marito renitente a pagare. Non è neanche così difficile, innanzitutto sì. No, ma nella prassi è proprio non... Nella prassi innanzitutto si può chiedere che sia il datore di lavoro a pagare l'assegno per i figli, si può procedere penalmente, si possono sequestrare beni, pignorarli, ipotecarli, si può fare di tutto, se, ovviamente dall'altra parte c'è qualcuno che ha dei soldi o una busta paga. Il problema si pone quando quell'altro lavora al nero o fa una professione libera, dichiara poco, ha nulla intestato, e a quel punto il problema diventa grosso. Ma chi ha la busta paga, chi ha una casetta, chi ha un'autovettura, chi ha un conto corrente, beh, può essere assolutamente aggredito. Attenzione, non versare i soldi per il mantenimento per i figli è un reato grave. L'articolo 570, per cui si procede d'ufficio e non c'è possibilità poi neanche di negoziare per un'eventuale remissione di querela. Se il giudice si accorge che c'è stato un dolo e quindi non ha impossibilità oggettiva di pagare quell'assegno e i figli sono stati messi in difficoltà insieme all'altro coniuge, ci sono delle pene severissime. Quindi non è che siamo proprio il paese dei balocchi, molti magistrati si stanno attivando, c'è anche questa questione di padri che non pagano l'assegno, chi non lo fa per dispetto, chi non lo fa ovviamente per grandi difficoltà economiche, parlo di quelli che sono stati licenziati, di quelli che obiettivamente non ce la fanno a pagare un assegno che il giudice ha sbagliato a quantificare, che è troppo alto. Ci sono anche questi casi, noi avvocati spesso siamo costretti a intervenire proprio facendo il conto della lavandaia davanti al giudice. Il giudice, guardi, a Milano non si vive con 200 euro al mese, lei sta uccidendo un uomo e bisogna dare la possibilità a quell'uomo anche di continuare a vivere, anche perché l'affidamento condiviso non è applicabile se quell'uomo non riesce a trovarsi una casa. Quindi alla fine, nel momento in cui gli fai pagare un assegno troppo alto, finisce anche il rapporto con i figli, cioè lo stai condannando a morte. Credo che dobbiamo trovare una soluzione, una via di mezzo, affinché tutti e tre le componenti, padre, madre e figli, continuino a vivere e nessuno rimanga indietro e non abbia una via d'uscita. Avvocato, io la conosco da tempo e so che lei, a fronte di una coppia di coniugi appunto intenzionata a separarsi, quando sente da parte di una delle due parti in causa appunto avanzare delle richieste troppo pretenziose, so che lei è uno che prova ad indurre al buon senso. Ecco, ma insomma, come si fa? Ma innanzitutto io cerco di mediare e cerco di far capire a entrambi cose. Quando difendo lei o difendo lui, ovviamente adotto soprattutto un dialogo con il cliente. Se io difendo una donna che pretende il 90% del reddito al marito, io non la difendo, o mi segue o non la difendo, più tutto perché spesso facciamo delle figuracce noi avvocati di tribunale, perché gli stessi giudici ci guardano male quando chiediamo delle somme esorbitanti. E in secondo luogo non lo ritengo moralmente giusto, l'avvocato ha anche un ruolo sociale, non è soltanto un killer che dietro l'appagamento di un bonifico fa qualsiasi cosa, almeno così dovrebbe essere. Quindi quando si tratta di andare a uccidere l'altra persona, perché economicamente lo si può uccidere, soprattutto in città come Roma e Milano, che sono costosissime, sono carissime, non puoi pensare di non far lasciare quell'uomo almeno con 500-600 euro, che già sono niente, già sono niente. Quindi io ho l'autorevolezza di dire a un cliente: se tu non mi ascolti, vai da un altro avvocato. Ne riparleremo, avvocato Gassani. Intanto grazie per essere stato con noi, grazie anche a Franca De Ponti, abbiamo terminato anche oggi. Sì, Mauro, grazie a Peter Bescapè e come sempre Marco Lombardo e Giulia Lauricella. Esatto. Noi torniamo domani, avremo due giornate molto intense sul tema che vi piace moltissimo, la casa. Pronti quindi, a domani.